24 mattino. Non trovi che è splendido? Sì, Bergen di notte è bellissima. No, la macchina in doppia fila, la sua posizione naturale. Luca Telese, 8 e 18, 51 minuti, no, 8 e 18, 51 secondi, scusate, 800 24 00 24 per intervenire, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Qualcuno è rimasto stupito del fatto che abbiamo parlato di chiavi clonate e falsificate, ma è ovvio, questo è un programma che racconta la vita, è un programma di informazione, di spettacolo quando ci riusciamo, ma anche di servizio, quindi state attenti, basta una foto, vi clonano la chiave. E tante cose che abbiamo raccontato, qualcuna è rimasta fuori: lo sciopero della fame del ministro Del Rio e di tanti altri parlamentari per lo Ius Soli, forse sarà tema di discussione, perché ora sta per arrivare il re dei gattoni, Oscar Giannino. Ah, oggi ti vedo, oggi sei, vedi? Fichissimo. Hai una cravatta, hai una visione, compaio. Hai una cravatta color salmone lisergico. Sì, perché mandragora e spinaci, anch'io ne ho consumato qualche porzione e invece ci hanno scoperto, adesso non possiamo più prendere gli spinaci Bonduelle per avere le nostre visioni casalinghe, sai, noi siamo dei dimessi intellettuali di quarta fila, quindi con gli spinaci ci facciamo l'LSD. Bene, è un buon inizio. Senti, ho tenuto per te, ma sicuramente l'avrei visto, l'apertura dell'economia di Avvenire. Uno penserebbe un giornale attento su molte cose, ma non sull'economia. Il fisco soffia sulle bollette. Cinzia Arena, famiglie italiane penalizzate e le industrie pagano il 20% in più. Tiè. Ecco, vedi che Avvenire, giornale di buoni principi cattolici, che non è così preso dall'ideologia di cui sei vittima, fuori dello Stato, delle sue entrate, delle casse esauste, ecco, l'Avvenire abbraccia l'interesse di noi poveri contribuenti stremati, e che, è il caso di dirlo, Dio li benedica, perché altri invece capiscono una sola canzone, cioè sbavano per l'avidità insaziabile dello Stato. Oggi, per esempio, un mucchio di articoli. Ah, finalmente Bruxelles azzanna la multinazionale americana e poi dice all'Irlanda dovete incassare 13 miliardi. L'Irlanda non li vuole incassare quei 13 miliardi perché reputa che il regime fiscale che ha praticato in tutti questi anni l'ha fatta crescere, e ha ragione l'Irlanda, non ha ragione, cari colleghi di tutti i giornali italiani assatanati, perché servite un solo interesse: più soldi allo Stato e meno alle imprese. Scusa, Oscar, ma è pazzesco, io qua, una oggi, malattia proprio. Ma oggi perché dobbiamo iniziare a discutere? Io veramente non ti capisco. Ma scusami, lo so. Se pagano le tasse gli imprenditori italiani che producono occupazione qui, assumono qui e pagano tasse feroci, tasse, come dici tu. Ma perché non deve pagare? È la tua premessa, capisci? Perché che ci non divide? Infatti, no, tu dici, se le pagano, no, possiamo abbonarle a tutti, ma perché dovremmo abbonarle solo ai giganti del web? Io questo non lo capisco. Io ti ho detto che dobbiamo abbonarle? No, no, ma non stai dicendo i giornalisti cattivi vogliono che paghino. Ma non mi trattare da ospite a cui devi far dire qualcosa. Senti, abbiamo due opinioni. Io non ti tratto da ospite. Ma qual è? Su che cosa? Io veramente non capisco. La mia è che l'Irlanda, con la sua bassa imposizione sulle imprese, 12,5%, che ha attirato imprese e crescita, per me, io voglio che resti in Europa con quell'aliquota, perché finché c'è l'Irlanda io ho una buona ragione per dire che in Italia ci sono tasse da rapina. Ecco, e questo è quello per cui mi batto io. E tu invece mi dici, no, siccome qui i nostri le pagano alte, bisogna farle pagare alte a tutti. No, la differenza. Possiamo anche abbassarle. È legittima, io non è che ti sto contestando. Da sempre il mondo si divide in due, in chi ritiene che lo Stato debba avere più risorse. Non cercare di attirmi su una posizione, no. Possiamo abbassarle a tutti, però una cosa è certa. No, tu le vuoi finché ci alzare. Sono, scusami, finché ci sono alte o basse, le pagano tutti quelli che producono ricchezza in Italia. O in Spagna o in Irlanda, cioè non è possibile che qualcuno le paghi perché è uno sfigato imprenditore italiano e qualcuno non le paghi perché dice ma io non lavoro in Italia. Hai detto una cosa, le paga dove le realizza, e poi ha detto in Spagna, in Irlanda. Ecco, se chi le realizza in Irlanda tu le vuoi far pagare invece come se le realizzasse in Italia, io non sono d'accordo, hai capito? È esattamente il fondamento della web tax è negare ciò che c'è scritto in tutti i testi unici dei redditi di tutti i paesi avanzati, cioè che la buona ragione per determinare un'imponibile nel nostro paese e avere una stabile organizzazione nel nostro paese. Improvvisamente noi, per strappare soldi allo Stato, ci mettiamo sotto i piedi questo principio elementare da sempre del diritto tributario sull'imponibile delle imprese e ci inventiamo che li vogliamo tassare sul fatturato. È come se io ti dicessi che ti condanno alla galera anche se non hai rubato, e tu mi diresti a quel punto: e come, non ho rubato? Chi se ne frega, io ti dico che ti mando in galera. È lo stesso tipo di violenza il ragionamento. Capisco che sono tecnicismi, il diritto tributario, figurati la stabile organizzazione, però è di violazione in violazione dei principi che si diventa l'inferno fiscale che noi siamo. E io infatti mi batto da minoritario per spiegare queste cose, non perché tentare di convincerti del contrario. Qualunque sia, tasse uguali per tutti, meglio più basse, ma se le pagano tutti quelli che producono e lavorano in Italia, meglio. Però è la mia posizione, sei tu l'esperto di economia. No. Al telefono con noi Filippo Bubbico, ex vice ministro dimissionario proprio per la sua posizione confliggente con la maggioranza di cui faceva parte sulla finanziaria. Bubbico, oggi tutti i giornali, un po' diciamo alcuni con malcelata soddisfazione, dicono: va bene, i voti di MDP se ne sono andati e quelli di Verdini sono arrivati, la nave va. Questo è il titolo del Messaggero. La prima domanda che le faccio è: perché ve ne siete andati? Era veramente così insostenibile il problema del super ticket, il problema della restituzione degli sgravi fiscali a chi non conferma le assunzioni o delle pensioni che state ponendo? Intanto buongiorno. Buongiorno. Noi abbiamo assunto una posizione abbastanza netta sui contenuti del documento di economia e finanza, sulla nota di aggiornamento. E mi pare che la risposta che è venuta dal Partito Democratico nella risoluzione riconosca la fondatezza delle questioni che noi abbiamo posto. Il super ticket, questo disordine che determina una lesione, una disparità nel diritto alla salute nelle diverse realtà del paese. Quanto poi alle valutazioni che i giornali oggi fanno, osservando una dinamica che si è pronunciata nel corso della giornata di ieri, occorre aggiungere anche una dichiarazione di un importante esponente del Partito Democratico che dice: emerge in tutta evidenza la inconsistenza, l'inutilità, la dimensione superflua dell'MDP. Questa maggioranza può andare avanti, questo governo può andare avanti senza l'MDP. Ovviamente introduce un ragionamento politico importante, perché si tratta di capire qual è l'idea, qual è l'orizzonte politico al quale il Partito Democratico fa riferimento. Sì, lei si fa riferimento a Giachetti, che i nostri ascoltatori non lo sanno, è un esponente del PD. E ovviamente il PD può allearsi con le forze in campo senza nessuna difficoltà, si tratta di capire se questa è la prospettiva politica e programmatica. Basta dirlo, tutto è legittimo. Oscar. Mi pare però sì, che si voglia agire utilizzando in maniera diciamo piuttosto confusa gli apporti, i contributi che vengono, determinando una confusione che certo... Bubbico, scusi, noi abbiamo un problema con gli ascoltatori, devono capire, perché se lei usa queste parole, usa un titolo del Messaggero per capire se sta parlando di questo. Ala torna decisiva, dice il Messaggero a pagina 2, Defo che del Senato ala torna decisiva. Sta dicendo: se il PD di Renzi e del Premier Gentiloni vogliono riprendersi Verdini come decisivo, fatti loro, è questo il punto. Sì, è questo, no? Sì, esatto. Ecco, lo dico solo per spiegare semplice. Meglio. Grazie. Senta, però le posso chiedere un commento a due titoli di Repubblica, in questo caso Repubblica pagina 4. Il primo titolo dice: tra le ambiguità e i calcoli della sinistra, l'unico vincitore della partita è Gentiloni, sintesi politica. Poi c'è la sintesi finanziaria. L'assalto alla finanziaria costa già più di 3 miliardi. Ecco, su questi due titoli sapere la sua e la vostra opinione, perché lei parla a nome di una formazione politica. Ma sul primo titolo mi pare che sostanzialmente sia corretto il Presidente Gentiloni, il governo non viene messo in discussione, peraltro questa non è neanche la nostra volontà, non abbiamo mai agito per destabilizzare il governo Gentiloni. Sulla seconda questione, io penso che il costo possa essere maggiore, perché c'è una tendenza a rincorrere le pulsioni molto particolari che possono garantire un certo consenso. D'altra parte abbiamo una lunga storia alle nostre spalle che ci rende particolarmente esperti in questa, questa pratica. Lo ammetto, è vero. Bene, grazie allora Bubbico, auguri per le vostre battaglie e passerà senza problemi la finanziaria con la nuova maggioranza in tutti i voti che l'attendono? Questo lo vedremo, questo lo vedremo. Bene, enigmatica quest'ultima battuta, grazie. Oscar, mi sembra che uno dei temi importanti di questa giornata sia questo sciopero della fame iniziato da alcuni parlamentari per votare gli Ussoli. L'avevamo mai visto un ministro che fa lo sciopero della fame chiedendo alla sua maggioranza di votare un provvedimento? Ma sai, ti piace come cosa? No, almeno ha una particolarità che veicola ogni tanto comportamenti di astensione dalla tavola, e questo mi piace più che altre forme di protesta. Effettivamente è una modalità nuova. Poi a me personalmente colpisce sempre Delrio, perché Delrio ha questa vena di ascetismo cattolico innestato nella pluralità dei figli, sì, di una famiglia di la vero. Bicicletta, c'ha questo, insomma, lui ha il physique du rôle da una parte di un domenicano che si scaglia contro gli eretici, asciugato dai digiuni, no? In nome, e dall'altra una bonomia francescana, però secondo me lui è più domenicano che francescano. Io temo gli apostoli della pace quando sotto il saio hanno la spada tagliente. E lui, Delrio, che nella stampa italiana è di solito dipinto solo come un buono, secondo me lo è un po' meno di quanto sembri. E quindi che sia lui lo scioperante della fame aggiunge un tocco, anche se ti dirò che poi, come avrai visto, è un'astensione a rotazione, insomma non è un vero e proprio sciopero della fame. Allora, Cesare da Monza ci ha già chiamato, ricordate 800 24 00 24, pubblicità e subito dopo lo sentiamo. Ma fammi ridere, fammi ridere, caro ascoltatore, Simone, fammi ridere. Rieccoci, due ascoltatori in linea, partiamo subito da Cesare da Monza. Di che vuoi parlare, Cesare? Buongiorno. Buongiorno a tutti, io volevo replicare a Giannino quando ha parlato della tassazione in Irlanda che è bassa, in Italia è molto alta. È vero, intanto come europeo a me non va per niente bene che in nazioni diverse si paghino tassazioni diverse, questo genera dei meccanismi poi molto strani, degli squilibri. Ma di concorrenza, Italia, genera concorrenza. Sì, però è una concorrenza che all'interno dell'Europa dovrebbe essere penalizza chi ha le più alte tasse, cioè noi, e cioè le induce ad abbassarlo. Va bene, però c'è un problema, che in Italia le tasse sono molto alte, appunto, perché c'è un'evasione esagerata. Allora mi aspetto che lei mi dica come andare a prendere questi soldi. No, guardi, siccome è la maniera per dire le teniamo alte. E questa qui, la conosco da 20 anni, la cosa di farmi passare da amico degli evasori. Quindi lei mi dice, a me non va bene che gli altri abbiano le tasse più basse, io invece lavoro per quello, perché? Va bene Giannino, perché io sono d'accordo il con fatto, lei. E allora se è d'accordo con me, non dica, Giannino però non puoi dirlo fino a che non riesci da solo a far sparire l'evasione. No, l'evasione Giannino, ha un qualche rapporto col fatto che le aliquote marginali e quelle legali, mediane e reali siano enormemente più elevate sulle imposte come sui contributi, perché non dimentichiamoci che c'è anche il cuneo fiscale e abbiamo 10 punti in più della media europea. Ma su quello però la domanda di oggi è giusto o no che il Lussemburgo però si faccia ridare 250 milioni di sconticino fiscale che ha fatto solo ad Amazon? Questa è la domanda. Allora l'Unione Europea dice non puoi farlo che solo i cosiddetti rulings cioè gli accordi con le grandi aziende per attirarne il fatturato e gli insediamenti nei paesi, li fa non solo il Lussemburgo. Quindi alla mia, alla tua domanda rispondo no. Sai perché? Perché li fa anche l'Italia, i rulings, ce n'ha più di 100 in corso, anche se questo i giornaloni non lo scrivono, perché così è meglio che la gente creda che ce l'ha solo il Lussemburgo e l'Irlanda. Allora, chi invece si occupa di queste questioni sa che dietro le due notizie di oggi, cioè i 250 milioni che la Commissione dice di Lussemburgo si ripiglia e i 13 miliardi che contesta all'Irlanda di non volerli indietro da un'altra multinazionale, sono una linea politica, perché i rulings ci sono in tutti i paesi dell'Unione. Allora, come la metti di fronte al fatto che ti dico che ce l'ha anche l'Italia? Tu che dici, perché sono loro e noi no? Ce li abbiamo anche noi. Sai che noi abbiamo un ordinamento tributario, per esempio, che da 2 anni riserva solo a chi ha miliardi di fatturato la possibilità di concordare con il fisco la pianificazione pluriennale? E io infatti sono insorto, ma a voi non vi ho sentito, dicendo perché bisogna darlo solo a chi ha miliardi di fatturato? Scoperta, anche l'Italia ha queste armi nel suo arsenale fiscale, ma le ha mantenendo alte le aliquote, gli altri li hanno mantenendole più basse. Allora facciamoci furbi, dico io, però è la mia opinione. Allora arriva un messaggio: perché voi non parlate dei 111 miliardi di evasione? Ecco. Guarda, mi pare qui a Cane Gatti ne parliamo tutti i giorni, quindi non c'è il complotto della Spectre, non siamo manipolati, non è questo paese di M come dici tu, perché si parla di tutto questo. Roberto da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno, stavo ascoltando adesso le ultime considerazioni. Prego. Di Giannino. Sì. Effettivamente sì, è chiaro che questa politica, come l'ha applicata l'Irlanda, come l'ha applicata Lussemburgo, sicuramente la fanno anche altri stati membri. La mia considerazione è questa, perché la Commissione europea chiede all'Irlanda di incassare questi soldi. Sì. E non li incassa direttamente, ridistribuendoli tra gli altri stati membri, che effettivamente sono quelli che ne hanno avuto. Ma perché nei nostri perché nei nostri trattati il fisco, come i debiti pubblici del resto, sono di competenza degli ordinamenti nazionali. Abbiamo una sola imposta armonizzata, che è l'IVA, che è la base di una parte di gettito comune che finanzia il bilancio europeo, e l'IVA. Su tutto il resto non è che Bruxelles può esercitare poteri ordinamentali che non ha. Può nella materia di evitare illecita concorrenza tra stati, questo è il grimaldello con il quale la Commissione europea, con le sue competenze in materia di concorrenza, dire a un paese no, ti stai comportando in maniera sleale, cioè garantendo condizioni di vantaggio fiscale che vanno a danno degli altri paesi membri. Ma poteri diretti nell'ordinamento tributario nazionale Bruxelles non ce l'ha. Bene, abbiamo Alessandra da Milano. Pronto? Sì, buongiorno. Sì. Io volevo intervenire sullo Ius Soli, su questa carina iniziativa dello sciopero. Ma mi domando questo, ma gli italiani in generale sanno che comunque in Italia c'è una legge che riconosce il diritto di cittadinanza sia ai minori nati in Italia al compimento del 18° anno di età, sia alle persone che si sposano con cittadini italiani, sia alle persone che sono, parliamo di extracomunitari, o che sono residenti in Italia da 10 anni e che hanno i requisiti di reddito? Cioè si parla dello Ius Soli come se noi fossimo il paese più retrogrado del mondo, dove in Italia gli italiani sono solo quelli che sono figli di italiani e nascono in Italia. Cioè, voglio dire, mi sembra che si veicoli una informazione che non è esattamente corretta. Ecco, tutto qua. Quindi volevo sapere voi cosa ne pensavate di questo. Ma abbiamo parlato tante volte dello Ius Soli e io penso, ma su questo siamo addirittura d'accordo con Oscar Giannino, penso che in un paese in cui un bambino cresce di fatto nasce, anche se ha dei genitori stranieri, frequenta le scuole, più cicli scolastici, io ho in mente delle facce, ho in mente i compagni di classe di mio figlio, vai a dire a quello, non sei italiano, sei cinese, non sei italiano, sei malgascio, sono cose ridicole, forse è perché non ci sono dietro le storie, c'è tanta ideologia, io vedo che molti parlano e non sanno di chi stanno parlando, non stanno parlando di guerrieri neozelandesi, di masai, stanno parlando di bambini cresciuti in Italia che parlano un italiano migliore di quello di tanti presunti italiani e che non hanno neanche bisogno di fare l'esame perché sono qui da 15, 16, 18 anni. Posso farti una domanda, Luca? Perché io concordo con te su questo, mi ha molto colpito in questi ultimi mesi, da che si è capito che il PD mollava la presa vista la mala parata e vista la valutazione che l'effetto ha avuto sui voti persi da parte del PD, che alcune personalità intellettuali, giornalisti, eccetera, di un mondo che più o meno affine al mio, hanno iniziato anche loro a elevare fortissimi dubbi. Faccio dei nomi, per esempio Marco Taradas, ma Pane Bianco, Gare della Loggia ce l'aveva fin dall'inizio. E l'argomentazione è un po' questa. Ti chiedo, sono curioso di sapere come la pensi. Dicono, vabbè, lasciamo perdere, nel merito potrà anche valere quello che tu adesso ricordavi, è il cosiddetto Ius Culturae, si chiama, no? Cioè chi ha fatto le scuole qua. Però il paese non è maturo, è meglio lasciar perdere per il momento, perché dal paese sono venuti i segnali che è meglio lasciar perdere. Tu su questo come la pensi, Luca? Ma o le cose, io penso che il governo abbia agito in modo, come dire, astratto, un po' ideologico dall'alto, cioè anziché spiegare dove, quando e perché questa norma serviva, con gli esempi, con le storie, ha iniziato a fare una cosa del tipo, boh, lo dovremmo fare, però perdiamo voti, allora non lo facciamo, allora non mettiamo la fiducia. Penso esattamente il contrario, cioè è una legge di cui si discute da tanto tempo, è matura per i tempi, fra l'altro perché sembra che riguardi solo gli islamici, ma sono una percentuale di questa storia, un terzo. Cioè hanno sbagliato la comunicazione, no? È totalmente sbagliata la comunicazione. È stata collegata al terrorismo, agli sbarchi, non ha niente a che vedere, ha a che vedere con Mario Balotelli più che con Mohammed Hatta. Penso anch'io che su questo abbiano fatto un errore clamoroso, sì, forse senza volerlo, però l'effetto è questo. Ecco. Allora ci fermiamo, altri ascoltatori in linea, restate lì, tenete duro, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Mattino. Roberto David Bo Valencia, pronto? Buongiorno a tutti voi. Eccoci. Contrariamente a un precedente ascoltatore. No, non si sente, si sente bene. Un po' male. Vai, riprova. No, si sente male. Mi spiace. Giovanni da Milano. Buongiorno. Io ho una domanda sul tema delle aliquote per le multinazionali con sede in Irlanda. Le percentuali in sé, bellissimo discorso teorico, ma la mia domanda è concretamente in soldoni. Alla fine è più furba l'Irlanda, che prende il 2-4% da aziende che fatturano miliardi di euro, o più furba l'Italia, che massacra col 65% un barista che fattura 40.000 euro all'anno? Alla fine dei conti, alla fine della pagina, chi porta più soldi in cassa? Idem in chiave di occupazione. No, ma se, però mi dica per capire, secondo lei chi è che li porta di più in cassa i soldi? L'Irlanda. Ah, ecco, appunto, quindi allora siamo d'accordo, bisogna seguire l'esempio irlandese. Assolutamente. Siamo anche d'accordo. In termini di posti di lavoro, Google, sono d'accordo. Facebook e Apple a Milano hanno qualche decina di persone. Sì. In Irlanda migliaia di dipendenti. Sono d'accordo con lei. Parliamo sempre a senso unico. Anche in altri settori ci sono delle disparità sotto gli occhi di tutti. Parliamo della grande distribuzione. Le cooperative sono aperte a qualsiasi cliente, non solo i soci. Auchan, Esselunga, Carrefour giocano in condizioni di disparità, perché non essendo cooperative pagano più tasse. Questi esempi qui. Sono d'accordo con lei. Allora, abbiamo in linea Gianluca Pini, che come sapete è uno degli esponenti di primo piano della Lega, e ci spiega oggi, buongiorno, è lì? Buongiorno, grazie dell'invito. ci spiega oggi questa polemica che c'è stata sulla ipotesi di secessione dell'Emilia dalla Romagna, una proposta avanzata da esponenti della Lega. Ma sono così inconciliabili queste due realtà? Buongiorno. No, buongiorno, no. No, innanzitutto non c'è nessuna secessione, semplicemente l'applicazione di un articolo della Costituzione che è il 132, quindi che permette con tutta una serie di passaggi democratici e costituzionalmente appunto garantiti di costituire, qualora ne facciano richiesta un tot numero di persone, un tot numero di comuni, una nuova regione. Ma questo perché pensa che, cioè, si va verso l'aggregazione? Pensa che l'Emilia non possa stare con la Romagna? Perché questo non è un problema di... Mi deve scusare, la prendo un attimo da lontano, ma non più di tanto, nel senso, quello che è successo e quello che sta succedendo in Catalogna è in qualche modo il segno dei tempi del fatto che l'Europa sta cambiando profondamente. C'è un dissolvimento naturale degli stati nazionali che non sono più in grado di dare risposte ai cittadini, e c'è un attaccamento invece non solo alle questioni identitarie, che comunque hanno un loro peso specifico e importante, ma anche alle questioni proprio di carattere macroeconomico che insistono su quelle che sono le diversità delle varie economie. Ora, Emilia e Romagna sono due realtà economiche profondamente diverse, non solo per il fatto che la Romagna per un terzo del proprio PIL vive di turismo, ma proprio perché ci sono strutture economiche diverse. Ora, questo è un primo passo fondamentale per capire che ci sono delle differenze, poi dopo chiaramente uno può dal di fuori confondere anche ma anche culturali, perché ci sono tanti distretti anche, certo, in cui c'è, che ne so, il turismo, pensi alla Sardegna e l'industria o la pastorizia, pensi al Lazio, cioè perché proprio l'Emilia e la Romagna dovrebbe avere una tale differenza economica da non poter stare insieme? Mi deve spiegare perché, però, quando sono state costituite e scritte le regioni, esisteva il Piemonte insieme alla Val d'Aosta, l'Abruzzo insieme al Molise, Trentino e Alto Adige erano un'unica realtà, adesso sono due. È un percorso democratico che però, ripeto, noi non è che abbiamo la verità in tasca. Siccome si sta ragionando in casa del PD a sinistra per fare una provincia unica, adesso le province della Romagna sono tre, poi diciamo che c'è anche una parte della provincia di Bologna dove c'è Imola, che è comunque storicamente e geograficamente Romagna, quindi Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini, al momento sono tre province. C'è talmente tanta confusione a sinistra che dicono: togliamo quelle tre e ne facciamo una unica, perché sono gli stessi che le volevano abolire, che è il solito casino che succede, che non mettono d'accordo la parte destra del cervello con la sinistra. Noi diciamo, anziché fare una provincia unica, siccome in Romagna ci sono facciamo due regioni, comuni, facciamo una regione molto snella, non si duplicano neanche i consiglieri regionali, perché al momento sono 50, potremmo portarli anche 40 complessivamente, dividendoli tipo 28 e 12, quindi non ci sarebbero neanche particolari costi di gestione nella rappresentanza. Ci sarebbe proprio una divisione, una spartizione del territorio sulla base di quelli che sono gli attuali numeri. Secondo me, siccome, ripeto, ci sono due economie diverse, hanno bisogno di attenzioni diverse, anche di regole a livello regionale diverse, potrebbe essere un'ulteriore spinta, oltre al fatto di poter negoziare direttamente con l'Europa quelle che sono le peculiarità del territorio, un'ulteriore spinta anche allo sviluppo economico. Però noi non abbiamo, come le dicevo, la verità in tasca, semplicemente diciamo: facciamo che siano i cittadini romagnoli ad esprimersi, visto che c'è comunque, ci sarà comunque con un referendum, un'unica provincia o una regione, decidano loro se vogliono un'unica provincia, rimanere poi sotto, diciamo così, il cappello di Bologna come regione unica Emilia-Romagna, o se invece vogliono essere autonomi. Contrariamente invece al PD, che dice no, decidiamo noi. Il problema è che loro lo fanno dal basso, di una rappresentanza veramente scarsa, perché nessuno dimentichi che Bonaccini, l'attuale presidente della regione Emilia-Romagna, è stato eletto con meno del 19% del consenso dell'intero corpo elettorale, veramente un'inezia. E quindi arrogarsi il diritto di scegliere per il restante 71% mi sembra un esercizio molto poco democratico. Bene, allora grazie. Oscar, che dici? Buongiorno Pini. È interessante scavare questi racconti, perché noi non abbiamo tesi precostituite. Io sinceramente non sono convinto, ecco, che dividere possa portare, però mi piace sentire le argomentazioni. No, anche a me, perché poi in realtà la storia italiana è lunga ed è complessa. Io ambirei semplicemente a un'impresa impossibile, che razionalmente ci si mettessimo a riflettere, ci si mettesse la politica a riflettere su scelte coerenti. Faccio tre esempi flash: comuni troppi, vanno accorpati perché c'è poco da fare, dovrebbero essere poco, costa, più di 1000 e non 8000. Costa, no, ma non è che costa, anche, non, anche no, sono troppo piccoli per poter offrire servizi efficienti per il loro ristretto ambito di risorse. Il contrario, in questo caso non danno ai cittadini quello che i cittadini dal comune, che è l'amministrazione. No, certo, però costa dividere, fare 80 regioni costa di più sicuramente, allora, dal punto di vista della spesa pubblica. Accorparli, io vorrei decentramenti più elevati con poteri più forti e più per risorse finanziarie, macro regioni, e poi devoluzione del potere verso l'alto, cioè l'Europa, i mercati, il WTO, questa roba qui. Penso che nel mondo globalizzato si stia meglio così che con vecchie architetture di stati nazionali. Noi abbiamo sedimentato poi un mucchio di comuni, province, le regioni, le comunità montane, è lo Stato, l'Europa, tutto insieme, e credo che moriamo di asfissia, di regole, di cui non riusciamo neanche a capire chi è titolare più di che cosa, perché tutti fanno tutto, cioè nessuno fa niente. Bene, leggete quel gran pezzo dell'Emilia se volete ricordare un giornalista scomparso in un suo libro famoso, grande, Berselli. Sì. Gianni da Torino. Vai, ci sei? Pronto? Gianni? È scomparso. Gianni? No, Mina, perché... da Salerno. Pronto, buongiorno, sono Mina da Salerno. Allora, io chiamo per parlare dello Ius Soli. Sì. Bene. Allora, praticamente la signora che ha parlato prima ha parlato dei diritti che si acquisiscono ai 18 anni, ma non è così per tutti. Io ho un nipote, figlio di mia nuora, che è un'ucraina, il quale è stato, devo dire adesso, anche se adesso ha 22 anni, un campione, ma non ha mai potuto godere del titolo, in quanto non si possono tesserare ragazzi che non sono italiani. Allora, frequentando la scuola italiana, partecipando a gare... Ma quando ha potuto ottenere la nazionalità, signora? Non ce l'ha. Neanche ora, a 22 anni? Non ce l'ha, perché la madre è ucraina, e essendo sposata con mio figlio, cioè il padre è pure ucraino, perché non è figlio di mio... lui non è figlio di mio figlio, ma il padre suo è un ucraino, quindi lui non è, c'è un permesso di soggiorno, è cittadino italiano perché sta studiando, quindi voglio dire, c'è questo... ma è cresciuto qui? No, non è cresciuto qui, è venuto qui che aveva più o meno 16 anni, ha cominciato subito, siccome era allenato, diciamo, da lì, sì. Quindi ha partecipato a gare, ma al momento che ha vinto non ha potuto godere del suo titolo, né tantomeno ha potuto tesserarsi con la Guardia di Finanza che chiedeva il suo tesseramento a 18 anni, perché non era cittadino, non è italiano. E quindi, ecco, queste sono cose pesanti che creano disagio, passano gli anni, si perdono le occasioni lavorative e si rimane nel disagio. Comunque nella rabbia. Grazie di questa testimonianza. Oscar, io penso che quasi così ci dovrebbero indurre una riflessione più aperta, e l'Italia ha cavalcato politicamente la cosa, chiudiamoci per gli immigrati. E... senti questo, quanto siete tutti e due falsi e viscidi sullo Ius Soli. Sapete bene quali saranno le conseguenze, sì, ma certo, non è l'invasione dei musulmani, e che ci sterminano e ci tagliano la testa, come raccontano politici di cui io di fronte ai quali dovrei inchinarmi dicendo sono persone degne e illuminate. Caro ascolta, fottiti, perché bisogna a volte dare una risposta secca. Se pensi che loro abbiano il bandolo della matassa di un problema così delicato, quelli che raffigurano come l'invasione in massa dei decollatori di Otranto, quelli che uccidevano a centinaia i cristiani levandoli la testa, la mia risposta è: ci sono due civiltà contrapposte, e io a quella dico fottiti, perché vi combatto, cioè nel senso che penso che sia un male assoluto di fondo nel paese cosa simile. Ciao, soavemente, ci vediamo, ci sentiamo domani, ciao. Cane e gatto è un amore odio. Guardi, solo amore.